Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. È maggio. Se avete mezza giornata libera, fatevi un giretto. Fatelo. Prendetevi la bicicletta, il cinquantino, la macchina, il cagnolino a guinzaglio, andate a piedi, come volete, ma andate. Andate a visitare una qualche zona artigianale, ce ne sono molte, nel nostro territorio. E preparatevi. Potreste incontrare delle vere e proprie città fantasma. Davanti ai vostri occhi capannoni abbandonati, strade deserte, dove una volta transitavano a pieno ritmo i camion pieni di merce pregiata made in Italy, ora l'asfalto si rompe per l'incuria. Zone industriali come la zona artigianale di Casale di Scodosia, dove una volta sorgeva fiero il fiorente distretto del mobile, ora sembrano una copia sbiadita dei giorni di gloria, relitti di un'epoca lontana. Dov'è il mito del nord-est rampante? Dove sono finiti quei piccoli imprenditori di successo che partivano dal nulla, con pochi dipendenti? Quegli stessi che nel giro di pochi anni, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, hanno trasformato il Veneto da paese agricolo di emigranti qual era, nella regione più ricca dell'Europa. Ma è proprio svanito tutto? Il mito del nord-est, diciamoci la verità, è in crisi, ma non è morto. Ma molte realtà, sì, quelle sono svanite. E drammaticamente con loro sono svaniti anche i loro creatori. La stampa li ha definiti imprenditori suicidi, catalogati, inscatolati. Hanno fatto capolino timidamente nelle pagine dei giornali e ora sono una presenza fissa. I committenti non pagano, l'azienda fallisce, il proprietario si ammazza. Storie apparentemente sempre uguali, ma drammi sempre diversi. Chiaro, non si suicidano solo gli imprenditori, si suicidano anche i precari, i disoccupati, gli anziani, i dipendenti. Eppure questi imprenditori sembrano fare più notizia, perché drammaticamente in sé riassumono tutto un sistema che passa da pochi anni dal benessere alla disperazione, proprio come queste persone che passano dal benessere al suicidio. Che cosa capita dentro queste persone? Cosa succede in questi ultimi e così drammatici momenti? È davvero colpa della crisi? Cosa possiamo fare per aiutarli? Nei mesi si sono venute a creare associazioni, sportelli, centri di ascolto, ma concretamente, che cosa si può fare per salvare la vita di queste persone? Ne parleremo fra pochissimo con la dottoressa Davne Giuseppina Palmisano del Centro per l'Impiego per la provincia di Padova. Ma prima leggiamo uno stralcio del messaggio che il Vescovo Antonio ha inviato nelle scorse settimane alla Diocesi di Padova in occasione della Festa del Lavoro 2012. Dal messaggio del Vescovo Antonio per la Giornata del Lavoro 2012. L'affermazione di Toniolo, secondo cui l'etica è un elemento intrinseco delle leggi economiche, mette in luce che anche nell'economia il soggetto è la persona ed entrano in azione le scelte libere della persona. Tuttavia oggi avvertiamo forte la sensazione che l'economia sia una sorta di sistema preordinato che sembra inibire la libertà dell'uomo e che produce anche vittime. Molte persone hanno la sensazione netta di non poter scegliere nulla in campo economico. Imprenditori che non ce la fanno e giungono anche al gesto estremo del suicidio. Numerosi lavoratori, spesso ultra 45enni, che vengono espulsi dal lavoro e che non riescono a riposizionarsi. Giovani che non hanno possibilità di trovare un impiego stabile che permetta loro di costruirsi un progetto di vita. L'elenco potrebbe continuare. Di fronte a questa sensazione di non libertà causata dal sistema economico, caratterizzato dalla globalizzazione, sentiamo il dovere di annunciare ancora una volta la prospettiva cristiana. sono gli uomini, con le loro scelte, con la loro intelligenza, con le loro tecniche, ad aver costruito questo sistema. E dunque gli uomini, ad ogni livello, hanno in se stessi il potere e la libertà di modificarlo. Buongiorno dottoressa Palmisano, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a lei, Canonna. Cosa ne pensa di questo brano? Mi sembra, l'articolo mi sembra molto appropriato rispetto alla situazione e dà molti spunti di riflessione importanti e necessariamente da approfondire. Tagliamo la testa al toro. C'è stato sì o no un aumento di suicidi in questo periodo di crisi? Beh, a livello mediatico se ne sente tutti i giorni. Oramai è diventato, come dire, l'elemento quasi più ricercato in termini di comunicazione pubblica. Leggo ogni giorno articoli che parlano appunto dei suicidi e mi domando anche quanto sia importante utilizzare una corretta comunicazione anche nel momento in cui viene rappresentato quello che sta diventando veramente un dolore sociale. Il parlarne rischia di creare uno spirito di emulazione oppure può in qualche modo far comprendere la vicinanza delle persone a queste persone che si sentono in difficoltà? Ci sono entrambe le possibilità, cioè c'è sia il rischio che appunto la comunicazione, una comunicazione comunque un po' avventata o comunque propagandata nei termini appunto di in qualche modo di eroicizzare quasi questi aspetti di suicidio, in qualche modo dire ecco questa è stata una risposta, sicuramente questo non crea non crea l'effetto desiderato che sarebbe invece quello di essere vicini a chi sta soffrendo, a chi vive al momento appunto questo tipo di sofferenza e perché si sente schiacciato da debiti, schiacciato da una situazione quasi di impossibilità. Non esistono soluzioni e questo porta la gente a vedere forse come unica soluzione gli aspetti estremi, ma questo chiaramente è legato a delle situazioni di solitudine estrema o comunque di una rottura degli equilibri proprio del funzionamento globale. E il problema dell'emulazione, come le dicevo prima, è possibile. Io posso pensare appunto che umanamente siamo portati a in qualche modo a sentirci vicino all'altro. Il concetto dell'empatia si basa proprio su questo. Il bambino imita la madre, ci basiamo su i neuroscienziati hanno scoperto appunto i neuroni specchio e questo porta a capire quanto sia importante appunto in termini proprio di una condivisione sociale quello che è sia l'apprezzamento sia il dolore. In questi termini, ecco, una pubblicità selvaggia o comunque definire anche gli sportelli di ascolto come centri antisuicidi, questo diciamo è molto rischioso per quanto mi riguarda, perché faccio un lavoro di grande attenzione, che l'ho addirittura chiamato attività e un servizio di case management, cioè di gestione del caso. E questo è quello che viene fatto dal 2010 presso i centri per l'impiego. E l'attenzione deve essere molto grande anche rispetto a quello che mediaticamente viene portato e su questo ci tengo molto a dare, come dire, questa sottolineatura. La ringrazio, ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati carissimi ascoltatori, al bene di tutti parliamone, siamo in collegamento con la dottoressa Palmisano e stiamo parlando del drammatico caso dei lavoratori, in particolare degli imprenditori, che in questo periodo di difficoltà arrivano a togliersi la vita. Grazie per essere con noi, dottoressa. Grazie a lei. Quali sono i segnali d'allarme? Voglio dire, perché queste persone arrivano a questo punto? Riusciamo in qualche modo ad aiutarli prima che arrivino a questi gesti estremi? Allora, io posso, in merito a quello che è l'attività quotidiana che è stata fatta appunto dal 2010 ad oggi, come attività di rete, ecco, con la Camera di Commercio e con la provincia di Padova e i comuni, quello che posso appunto rilevare è che i segnali di allarme sono presenti diciamo in una maniera quasi non definibile, non necessariamente rilevante. Abbiamo problematiche che vengono riportate da diversi utenti o quelli che chiamiamo appunto casi da seguire, che sono di gravità diverse. Diciamo che fondamentalmente gli elementi critici, questi possono essere rilevati, le criticità, ma non sempre questi fattori di criticità sono poi necessariamente collegati ad un gesto che per cui lei mi fa la domanda, ad un gesto suicidario. E i fattori di criticità maggiori sono legati a tutto quello che è la struttura sociale, l'impostazione appunto della vita della persona. Quali sono le psicopatologie principali all'interno del mondo del lavoro? Ma questo diciamo richiede, non ci sono delle psicopatologie specifiche, se non chiaramente quelle più legate strettamente al lavoro, dovute magari ad una esacerbazione di aspetti lavorativi dovuti magari al clima, al gruppo del lavoro, ma questi sono legati al fatto appunto che una persona lavora all'interno di una situazione, per cui le criticità maggiori sono magari legate ai conflitti. In questi casi le patologie collegate appunto alla perdita del lavoro sono sicuramente di ordine più possono intaccare la persona più in termini appunto della struttura della personalità, quindi dobbiamo capire qual è la base della struttura della personalità, ma soprattutto si evidenziano nel funzionamento che la persona non riesce più a sostenere, funzionamento lavorativo, funzionamento con la propria famiglia, funzionamento nell'area sociale, funzionamento appunto riguardante l'organizzazione anche della propria, della conduzione della propria giornata. Il fatto di perdere appunto di perdere il lavoro è quasi un orizzonte proprio di futuribilità, un orizzonte di progettualità che viene meno. La persona può reagire in termini o di estrema eccitazione e quindi magari denegare la realtà di rischio che sta vivendo. Ci sono appunto debiti, magari molti sono strozzati appunto da fidi bancari, prestiti o non riescono più ad ottenerli. E il mutuo per la casa, il mutuo per aver appunto investito nella propria azienda, ma anche semplicemente nel lavoratore comune, per aver investito appunto in un progetto di vita con la propria casa. Questi sono gli elementi che chiaramente fanno saltare tutti i livelli di stabilità. Non esiste più stabilizzazione a quel punto, la persona può reagire in termini di maniacalità, cioè con un eccesso di attività, con una ricerca continua di una soluzione, negando quelli che sono i problemi reali. Quello che molto spesso arriva da noi è proprio questa ricerca continua e forsennata di altre soluzioni, pur di non vedere quelli che sono invece i problemi reali, che vengono magari poi discussi con gli esperti, magari fiscalisti, con gli esperti, con l'avvocato, per cercare appunto di trovare dei patteggiamenti. Questi sono degli aspetti molto pratici ed è drammatico il fatto che appunto la persona rischia di perdere l'esame di realtà. Dall'altra parte, ecco, sul polo opposto ci può essere invece una reazione depressiva, cioè una reazione di chiusura. Già il fatto che la persona riesca comunque a fare una domanda, a operare una domanda d'aiuto, quindi a rivolgersi, è una cosa molto positiva, per cui la pubblicità io credo che non debba essere appunto posta su rischio suicidario, quanto proprio sulle possibilità di aiuto che possono essere offerte, ma la cosa sostanziale è che ci siano appunto dei punti di riferimento dove appunto può essere, la persona può essere presa in carico rispetto a quelli che sono le specificità dei problemi incontrati. La mitologia del giornalismo di questi mesi ha già precostituito un'immagine dell'imprenditore del nord-est in crisi e che arriva a compiere questo gesto estremo, perché magari ha basato tutta la sua vita e ha proiettato totalmente il suo sé all'interno di un'azienda, di un'impresa, di un progetto lavorativo, proprio per venire insomma, a seguire il suo suggerimento, quello insomma di non creare allarmi da questo punto di vista qui, ma mostrare le modalità di aiuto. In che modo le persone che hanno basato totalmente la loro vita in questi progetti possono imparare anche ad un'età avanzata a gioire nonostante il fallimento nel lavoro o nonostante le criticità del lavoro in molto altro che magari hanno e magari va ad un secondo piano rispetto al successo o meno nel lavoro? Parlo per esempio della famiglia, dell'amicizia, della loro stessa vita ed esistenza. Sì, ecco, io proprio in merito a questo la ringrazio anche della domanda. Io potrei considerarmi un po' per il servizio che faccio, un po' anche per il fatto di non essere veneta e di essere comunque qui e trovarmi appunto in questo tipo di attività che diciamo ho avuto in mente ed è stata realizzata appunto tramite i centri per l'impiego della provincia. Ecco, io sono pugliese, io sono di Bari e devo dire la verità, questo aspetto appunto del mito appunto del nord-est, ecco, io ho proprio notato questi aspetti, di queste grandi differenze. Io vengo da un territorio dove effettivamente l'imprenditore è stato già molto abbandonato a se stesso e quindi culturalmente probabilmente ci si creano anche in qualche modo, tra virgolette, diciamo dei dispositivi altri, ecco, per poter portare avanti l'azienda, per poter portare avanti una propria progettualità di lavoro, tra cui anche quella di soluzioni diverse, quelle anche di uscire dal proprio territorio. Ecco, trovandomi qui io ho notato, ecco, quasi un crollo di un ideale, il crollo dell'ideale forse di questo mito di cui lei mi parlava. Operativamente quello che può avvenire è semplicemente accompagnare appunto la persona in un percorso in un percorso in cui possiamo tornare a guardare effettivamente la realtà che c'è davanti. Nell'attività che ogni giorno appunto opero presso appunto questo servizio di case management, in rete, ripeto, con Camera di Commercio, con cooperative e altri, i comuni, i servizi sociali dei comuni, ecco, quello che viene visto è proprio la persona, l'aspetto dell'incontro, di un approccio reale, realmente interessato, ecco, il desiderio appunto dell'incontro con la persona fa molto. Desiderio significa, io faccio riferimento un po' alla Lacan, quello che Lacan diceva, il desiderio del paziente, cioè non ci può essere un aiuto reale se non è proprio strutturato proprio nei termini di un interesse reale alla persona da parte dell'operatore. Gli strumenti sono anche strumenti essenzialmente pratici. La persona che viene come lavoratore, che ha perso lavoro, viene seguita. Io potrei parlare di tanti casi, anche soprattutto over 50, perché questa diciamo, è la maggiore fascia di età che chiaramente viene seguita da me. Ecco, persone che magari vengono già con delle idee preconcette che sono veicolate anche dalla cultura generale. A 50 anni, anche a 60 anni, sei finito lavorativamente parlando, questo è quello che si crede. Quello che viene fatto è un lavoro realmente di rimotivazione, di smantellamento di tutte le credenze e le convinzioni che limitano un percorso di attivazione della persona. La persona viene accompagnata a conoscere gli strumenti, già questo primo incontro, questo primo aspetto di parlare di quelli che sono stati gli strumenti che ha utilizzato e perché non hanno funzionato e iniziare invece a utilizzare gli strumenti di cui disponiamo anche al centro per l'impiego ma anche in rete, ripeto, con gli altri operatori. Questi offrono, queste attività offrono una nuova prospettiva, creano la definizione di possibili passi da fare comunque da tentare e comunque da operare. Grazie, mi è piaciuto che siamo passati dal parlare di famosi imprenditori suicidi a lavoratori, commercianti, professionisti e piccoli imprenditori che possono, anche grazie al vostro aiuto, farcela e uscire da questo periodo buio. Grazie a lei. Grazie. Continuano le iniziative per il mese di maggio, mese del lavoro, da parte dell'Ufficio per la Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova, con Cose Nuove del Lavoro. Fra poco, alle 19, a Padova, nella chiesa di San Luca, la veglia di preghiera. Stasera, alle 21, al Multisala Pio X, Le Nevi del Kilimangiaro, un film. Venerdì 18 maggio, la staffetta di lettura alle 20.45 al Museo Diocesano nell'area Parole di Lavoro, mentre mercoledì 23 maggio alle 21, ad Este nell'Accademia dell'Artigianato, Sensi di Fatica 2, il lavoro raccontato con l'arte. Sabato 26 alle 9.30 all'Auditorium dell'OIC in zona Mandria, crisi economica e finanziaria, rendite, pensioni, risparmi e previdenza, un convegno a cura del Lucid. Ringraziamo l'Associazione San Gaetano Don Piero Zaramella per il sostegno e il contributo dato alla realizzazione di queste trasmissioni. Noi ci ritroveremo nuovamente martedì prossimo alle 18.25 sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Riascoltateci sul podcast sul nostro sito, mandateci mail per suggerimenti e consigli a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, l'appuntamento con noi è a martedì prossimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova.